Oggi pomeriggio abbiamo chiamato a raccolta tutte le realtà cittadine che hanno a cuore una città dove ogni persona che è in strada vale allo stesso modo, quindi una città più equa, più democratica, dove lo spazio pubblico viene condiviso e non ci sono prevaricazioni. Hanno aderito tantissime realtà, più di 65, tantissimi comitati cittadini che vogliono più Città 30 e non meno, e sarà presente anche il sindaco. Anche perché comunque abbiamo visto che ci sono dei dati positivi che hanno mostrato il calo di incidenti e di feriti, soprattutto quelli gravi, in questi 2 anni. Assolutamente, e per questo appunto vogliamo continuare su questa strada ed è necessario che la Città 30 torni ad essere la priorità politica e amministrativa per questo ultimo anno di mandato, un anno e mezzo di mandato. L'amministrazione ha già comunicato che sta riscrivendo finanze, ma questo non ci basta, nel senso che nell'ultimo anno, appunto nel 2025 rispetto al 2024 che era il primo, abbiamo notato un calo di attenzione su questo progetto, con pochissimi controlli in strada, pochissimi insomma fondi stanziati per rivedere l'assetto stradale, che è fondamentale, perché la Città 30 non si fa solo con un limite, ma si fa con tante azioni strada per strada di appunto revisione dell'assetto stradale per rallentare di fatto le auto e consentire alle persone di stare in sicurezza. Per questo motivo pensiamo che non basti riscrivere l'ordinanza, ma bisogna fare di più. Quest'anno deve essere un anno di rilancio del progetto.